ma cosa è mai successo al mondo? Non capisci che è la conseguenza degli errori di freddezza, infangando ciò che poi tu chiami terra. Quando l'uomo sa che c'è ingiustizia, allora cerca un rimedio per riportare pace e amore. Ecco perché poi la natura scatta, si ribella per avere quell'armonia che serve anche all'uomo. Naturalmente Dio lascia che sia l'uomo a fare, sperando che poi provi a sistemare le cose avendo cura col cuore. Ma se poi Dio permette, non ti puoi più arrabbiare, perché c'è una ragione che vale di più, il bene giusto dove hai fallito tu. Solo vita, come puoi pensare che lui vuol portare morte dove hai scelto tu di restare senza lui e odiare chi ti è padre e vuole amore, piangendo ogni volta che guarda soffrire. C'è una ragione che si espande solo se lo spirito dal cielo scende, come Gesù, per poi farti capire con la scienza e l'intelletto che c'è Dio che sta salvando tutto il mondo. Naturalmente Dio lascia che sia l'uomo a fare, sperando che poi provi a sistemare le cose avendo cura col cuore. Ma se poi Dio permette, non ti puoi più arrabbiare, perché c'è una ragione che vale di più, il bene giusto dove hai fallito tu. Naturalmente Dio lascia che sia l'uomo a fare, sperando che poi provi a sistemare le cose avendo cura col cuore. Se poi Dio permette, non ti puoi più arrabbiare, perché c'è una ragione che vale di più, il bene giusto dove hai fallito tu.